MG attaccato, 1, 2, 3. MG, 1, 2, 3. Allora, va così, è normale, 1, 2, 3, prova di modulazione, asso attacco. Ok, dimmi come è adesso, 1, 2, 3. Ok, sempre lo stesso, eh. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Guarda un po', 1, 2, 3. Come mai? Eppure c'è la sorpresa qua, sì, 14 ampere addirittura. E segnali come ti arrivo io? Sì, sì, non vedo. Guarda, bisogna andare in distanza, bisogna guardare. Sono andato io in campagna giù. Allora, questo passaggio è normale, 1, 2, 3. Adesso ho attaccato, 1, 2, 3, prova di rotazione. No, l'eco è tolto. No, così è l'eco, 1, 2, 3, prova di rotazione. Adesso è tolto l'eco. Grazie, questo lineare a pesca microfono. Guardami, adesso tolgo lineare. Ecco, ha cambiato la modulazione. Magari sarà per quello comunque, dai. Comunque, lo lascio così, dai. Buonasera, qua Rosso, dalla 131. Ehi, anche la 131 arrivo. Ma Cagliari mi! Ah, la 131 di Cagliari, sì, la radio va bene, va bene io. E allora, mi, intervento d'urgenza lì punti, stiamo andando, abbiamo mollato tutto. Se non va a fare questo intervento lì punti. Non ho capito, cosa? Ho detto, stai andando a fare questo intervento ai punti. Senza acqua calda sono, devo chiudere un rubinetto, aprire un altro, speriamo. E poi dritti a casa. Gappa, gappa, già va bene, dai. E anche quello ci sta, ci sta. Ehi, meglio quello che 100 malanni, dai. L'importante è che sia tutto a posto. Dillo forte, dillo forte. Che radio sta usando? Non è la stessa di stamattina, vero? No, questo è il Galaxy Saturn Echo con un Salelta. Più bella questa modulazione, arrivi più squillante, dai. No, bella, bella, bella. Funzionano bene questi baracchini, ci vanno bene. E io ogni tanto alterno, ecco, non è che ne abbia più tanti, prima ne avevo tantissime, adesso ne ho due sole, siccome quella lì la stavo provando perché è arrivata da poco dal centro assistenza, adesso l'ho provata, l'ho messa da parte, ho riattaccato questa. Infatti no, più bella la mia voce questa qui. Ho visto che ne stanno vendendo un sacco di quelle di quelli militari, però non lo so se comprarmela, giusto per sfizio, va. Ma no, già mi va, già militari. Se hai intenzione di comprarti una radio, comprati un bel 140, un bel C80, qualcosa così, che vanno bene in AM, le puoi usare, il resto lascia perdere. Ho un bel baracchino base come questo, Galaxy, una bella radio. È completa, va bene. Mi devo fare però un bel setup a casa, che c'ho VHF, ma praticamente non lo uso mai, almeno se c'ho sulla 27 posso parlare, sennò che cazzo, non è facile queste radio. E niente, volevo prendermi anche uno che faccia anche l'HF. Intanto speriamo che maggio giugno riesca a prendermi questa patente, se tutto va bene, Covid permettendo. Beh, un 030 ti prendi un HF appunto, dove c'è anche la 27, e così lo puoi usare, capito? Va bene. Prima la patente, come si dice, no? Poi alla radio ci si pensa. Ande bene, là, io sto arrivando alla casa, ti lascio, la richiamo più tardi. Ehi Enrico, già sono qua in stanza, lei sta facendo cosa, ci sentiamo dopo. E io più tardi, ciao ciao. Ciao ciao. avanti. Avanti, chi è? Aspetta lì. Chi è? È quello. E beh, lui sta. Ascolta, tua madre la mette in fornina a prende. Come? Tua madre la mette in fornina a prende. Le condizioni? No, negativo. Perché ne ho tre scatole qua, a me mi fanno male. Cos'è? È pastiglie per il diabete. Le? Pastiglie per il diabete. Mamma prende un'altra, la mattina solo è qui. Io ho ora di cena, però non ne posso più prendere perché mi fa male. Cosa ti fa? Ha mal di pancia. No, non le prende mai, la roba. Dai fuori, vabbè. Sono fatte sanere più giurenti, più baetta. Magna, se gocca, boh, si mette l'umida. Beh, aspetta, non parole. Sì, vabbè, che cosa vuoi fare? Purtroppo. Da cosa l'appuntamento per fare la visita, che c'era. Non so, non mi ricordo, a novembre c'era. La visita per il diabete. Ma dimmi tu, a novembre, ma te ne ricordo. Io ce l'ho a maggio. Ma carina, ma uno schifo qua, uno schifo. E via, vabbè, dove fa? Purtroppo, qua andavo l'ore, Sì, infatti. Acevo non mi trovo un CD da Windows 7. Adesso avevo fatto un computer, ma l'ho dimenticato dentro. Non me l'hanno restituito. Che palle, cazzo. Ma sai che era completo di licenza? Cosa? Figura ti ho detto! Non lo trovo da nessuna parte, ho trovato un finto computer, ma c'era dentro il lettore, non lo vedo. E io, pazienza, non mi ricordo manco quando l'ho fatto l'ultimo computer. Non lo so, e vabbè, pazienza. Ma non mi senti bene lui? Sì, il televisore si sente un bel Natalino, un bel televisore. Sì, ti ascolto bene, ma senti più il televisore che tu. E aspetta. Ah, vero. E lui? Ah, a me mi senti invece. Fa buia. Forte chiasso. Sempre che c'è un microfono a me. Già un po' bobus. Ecco, va bene. Allora, vabbè, non va bene. Ho visto la MB più 4, 60 euro ho spedito. Eccoci cosa la MB più 4 va a fusare un nuovo mese, 60 euro spedito. 60 euro un nuovo gulla a fusare. Capito? Boh, non lo so, guarda, mi sembra una cosa molto strana perché veramente, o c'è qualche modifica a quel Typhoon nei fili, non lo so. Questa la radio è quella di Danilo, il microfono è quello di Danilo, ma io l'avevo già sentita, quindi andava bene. Non lo so, non è la modifica mia, assolutamente. Legata con le baby più 4, con le modifiche che ha lui va benissimo. Va benissimo, l'ho attaccato al 3009 e va benissimo. Però non lo so, modifica non è. No, perché c'hanno le stesse connessioni, capito? Perché te l'ho detto di prenderlo. Perché hanno le stesse connessioni. Non hanno connessioni diverse. Il Galaxy, il Typhoon, il 3009, tutte quelle radio lì. Il Cobra, il... cosa ti posso dire? Il Magnum. Hanno tutte le connessioni uguali. Non so perché li ho tutti usati, capito? Per quello te l'ho detto. Ma il canone non funziona. Esce una canonata, ma io non ho toccato niente, ho solo pulito gli slider e basta, perché gracchiavano, però va bene. Beh, certo. La prova l'abbiamo fatta, non va. Adesso mi sa mi piglio una bustina, c'è un po' mal di testa, aspetta, riprendi Natale, ci sei. Sì, già sono qua io, dai, KK, ciao anche Natalino, buonasera, ben ascoltato. Non mi ricordo che cazzo ho messo il DVD del Windows 7, vabbè, tanto si sta un po', ma farsi benedire. Cosa? DVD? Il Windows 7, là. Ne avevo uno con la fica rossa. Ti devo parlare da grosso, ma aveva fatto Stefano quello. E noi non lo trovo più. Non lo so. Controllo da qualche parte sarà. Da qualche parte. La busta con la sorpresa e poi ci mettiamo a mal di testa, cazzo, mi basta la gana di tutto. stavo a combattere con una cazzo di computer, purtroppo c'ha, prima non si vedeva la scheda al video, io l'ho sistemata quel portatile, adesso il PC funziona, però c'ha il disco danneggiato e non mi fa installare il sistema operativo. Più bella, c'è un bicca, non mando una pad rotaria, una pad bar su computer. Ma no, non c'è dove l'hai no, aspetta che stavo chiamando, aspetta. Mia bella Madonnina, tu che brilli da lassù. È qua, dove è il microfono? Che è, Nico, tu sì. Negativo, Rossi in ascolto, ma Madonnina non è cantato. Ce l'ha fatto, Ehi, bene o male era solo una valvola. Meglio così, dai. Adesso stai rientrando a Chiaramonti. Cappa, mi passo a comprare il materiale e poi dritti a Chiaramonti. E allora, svalvolati della 27. Vabbè, Edoardo. E allora, tutto bene? Guarda, io non mi posso lamentare. Sto mangiando, dormendo. A volte vado anche in bagno, non sempre, però sto bene. E beh, gli altri doveri coniugali non li fai? No, quelli non ce n'è più. Ah, sepolto? Buttato via tutto, c'ho altro a cui pensare. Ma te lo ricordo il giorno, così ti porto i fiori. Vabbè, è già... No, non me lo ricordo. Ma è passato già un bel, l'ho sepolto già da un bel. Vabbè, no. Sono altri gusti. Meglio un gusto che 100 malanni. Bene, mi ascolti col Galaxy, Anto? Certamente, sì, vabbè, sono in campagna, adesso faccio un'ala 48, però ti sento bene. Molto, la modulazione è molto bella, molto accesa. Molto bella, vabbè, segnale com'è buono. Cioè, va bene anche il segnale, sono la massima potenza della radio, 20 watt. Sì, io vengo un picchi da 9.5, però, ripeto, è un tiziaretto, magari c'è anche lo smitter... Poi chi ti ha la 48 c'è uno smitter, è proprio una boccaria, Ma... Ciao, pagato, poi c'è anche Natalino, mi Natali. Oh, Natale, e allora? Ma non mi senti a me? Ma cosa non ti intendo? Io ti intendo, ciao tu. E allora perché non mi rispondi, caro? Perché ero al computer. Ma perché ti sei abbassato di segnale? Eri quasi 7 e sei sceso a 3. Basso sono. Ma ti sei abbassato. Ma ritrano, sempre un 4 watt, esogu. Adesso sei di nuovo 7. Ma sarà un problema mio. Non ho toccato niente qua, solo il microfono. Tu qua, ti sei accorto di qualcosa? Di cosa? Scusate, stavo rispondendo a Danilo, dimmi. No, ho detto, in un momento era 7, poi 3, poi di nuovo 7. No, non stavo guardando lo Smith, prova Natali. Sempre con 4 watt sono, io non ho toccato nulla qua. No, stabile, 9, 10, abbondante, radio 5. Sì, adesso anche da me, ma poi è sceso prima di colpo e poi è risalito, vabbè, magari è un problema mio, avrò qualche interferenza. Tu pensi sempre alle cose brutte, devi pensare anche alle cose belle, Certamente che emo! Fatela con la telefonata, ti sei messo in contatto? Sì, certamente, mi ha contattato direttamente, io gli ho mandato un messaggio su Facebook, ma poi mi ha contattato lui su WhatsApp, sicuramente ce l'aveva il mio numero. Sì, io ce l'aveva. E niente, mi ha contattato, adesso io ho mandato, ho chiamato quel mio amico, gli ho mandato le foto, e gli ho detto deciditi perché ho detto c'è altre persone interessate, vedi un po' tu. E poi ce l'avevo anche io la foto, perché gli avevo mandata io la foto prima di raggio, capito, quindi me la sono tenuta nella galleria. KK, ehi dai, già funziona, già bello, già nuovo. No, io devo lavorare, la verità è il mio, che è un pochettino vecchiotto, ho marcato ancora trio. Ho detto, guarda, io il mio, mi prendo quello e aggiungo la differenza. Poi ti ho pensato, gli dico, no, se lo vuoi ci piglia chissà. Ah, no, anche lo mio non è trio, cosa penso io faccio io, mi sono voluto. Vanno meglio quelli, io mi sono tenuto quello trio che ho dato quello normale, della Kenwood, capito? Ma non molto meglio quelli lì, sono più affidabili. Ma aspetta, il mio è proprio uno di quelli vecchi, vecchi, no, invece il mio è nuovo, però anziché avere solo la scritta Kenwood c'è anche l'alberino, capito? No, il mio già è anche un po' sciuffazzato, comunque comunque non è che lo, quando l'ho preso io, quando me l'hanno dato a me, insieme alla radio, non è che lo trattassero così tanto bene. Male. No, il mio non è. È nuovo, già va bene. Solo che c'ha l'alberino e qui c'è la scritta al Kevod, capito? Mentre quelle nuove non ce l'hanno l'alberino. Tutto qua. KK, avanti Natalia. Ehi, Antu, come sta uscendo questo apparecchio? Quello nero, Emmy. No, già va bene, io ripeto, non ti posso dare un rapporto di segnale giusto perché lo trasmette un pochettino così, poi io ho l'antenna con il radiale sul tetto, non l'ho mai sollevata perché ho un palo della corrente che mi passa proprio vicino alla casa. Anche io ce l'ho bassa l'antenna. Io la volevo sollevare ma ho paura quando c'è vento, ma quando c'è vento forte ho paura che mi si corichi direttamente sui fili della corrente. Infatti devo spostarla nella parte di dietro della casa, però la parte di dietro della casa è alta perché comunque sono due piani, quasi due piani e mezzo, e non ho una scala altissima, a fare i buchi e a mettere la zaffa da sopra il tetto non ha più gane di fare i figosi che ormai sono cominciato. E infatti siamo diventati anziani adesso. Azzardo. E allora, Zebra? Che facendo Azzardo? Nulla, mi sono venuto in campagna così, a dare un'occhiata. Poi in campagna è di forza, ma te ne varia. E vabbè, in campagna c'ho l'avanto, Valo, già lo sai, poi sono sulla Budibudi, si può dire io. Sono attaccato a casa di Tino, 100 metri da Tino. 9 più 10 sta arrivando, di russo. Cazzo, sono 9 più 10. Cosa vuoi? sono io, 9.30, arrivi benissimo, ho detto. Da casa va bene, a casa, ma... la lì arrivi bene lo stesso, va bene. Se 9.10 è abbondante qua. Vedi che c'è le antenne come ti diceva bene. Cavolo. Anzi c'è 9 più 15, Antonio, esattamente. 9.15 radio 5. Vabbè dai, c'è un giusto comunque rapporto. Vedo però, adesso guardami questo passaggio e guarda quest'altro, è cambiata qualche cosa. Io non altro di ne vado, se vado da Santiago Nuovo ne manco, otto. Vedi che allora. Ui ai ai. Da me ha fatto da 3 a 9.10, 9.10, vabbè sono messo di fianco, fa un passaggio di nuovo. Guarda, questo è uno così, 1, 2, 3, e uno è così. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2 e 3. Sì, 9.10 qua. Da 3 a 9.10, K. E poi la radio non sa trovare niente, perfetta. Assolutamente, intanto, ma qual è quello che ti avevo fatto vedere io? Che cosa? Lignaretto. No, questo qui è un 2001. Minchia cazzo quanto sale, da 8 a 9 più 10 sale, a 9 e 15. Questo è un 2001 col volare, che l'otto quanto ho revisionato, esteticamente è una merda, perché fa proprio schifo, certo di coprichi arrugginiti, le manopole non sono più le sue, sta roba recuperata, però gli ho dato una revisionata, gli ho sostituito la valvola, ho visto che andava bene, me lo sono tenuto. E se te ne dirugaro, Santiago 8, 9 più 15, minchia, eroga bene, poi la radio, come ha detto Luca, è bella, non satura. No, valvole, ne ho due io, me li ho già imballati e portati via, addirittura manco qua sono più. Ma valvole è difficile che ne usi, consumano troppo e poi non servono, c'è quello transistorizzato io che va più che bene. Ehi, vabbè, io le do 4 colpi quando vengo qui in campagna, adesso perché ho l'antenna ancora bassa, ma poi se sposto l'antenna da lì, da dove è adesso, perché ho contattato quella ditta per prendermi quella della Grazioli, l'antenna, e sto aspettando una risposta, una email per fargli il bonifico. KK, io lo stesso non lo so se metterò la mantova, non lo so, esteticamente dove devi andare è un bel fea, quindi devo vedere un po', trovare qualcosa che si assomigli un po' alla mantova, un po' più piccola, giusto per fare due chiacchiere, vediamo. Questa qui io ho visto che molti ne parlano bene, ho detto vabbè, ho contattato la ditta, gli ho mandato un'email, mi hanno riscritto, gli ho detto vabbè, fatemi sapere, mi mando il bonifico, me la compro, niente, la piatto, e vedrò. Molto grande, Arturo. Praticamente là è un amando qua, su per giù, la grandezza è quella, però è una cosa diversa, cioè è una cosa nuova, poi ripeto, hanno fatto anche delle comparazioni, ci sono, se tu guardi su Facebook, ci sono delle comparazioni che hanno fatto anche con la Game Master e con altre antenne, comunque a gran lunga superiore a una ricezione senza paragone. Ma devo mettere qualcosa tipo quella che ha messo Franco Califfo, una cosa così piccola, bellina. Non ne voglio buoni di manto, vado in nuda, ma ci vediamo. Che anch'io devo metterla sul lato del muro della casa, non mi piace avere sto palo di luce così che spunta. No, vabbè, ragazzi. Ehi, vabbè. Quando metti solo un'antenna, il brutto è quando inizi a mettere l'antenna, dipoli, cazzo, corde che vanno come in piedi in campagna e avevo 18 metri di palo, sono da Marcello, ti dico corde, tanto corde che andavano, tiranti che tornavano, no, così non mi piace più neanche a me. No, non devo mettere niente, tanto io il roba amatoriale non la tengo più, c'è solo 4.30, giusto così per ascoltare, ma basta, con la mantova stesso non ne ho più, di poco ho tolto tutto, direttive tutto. Però voglio mettere un'antenna per la 27 che non sia molto ingombrante, che non sia grande, capito? Boh, ma adesso vediamo. Oh, pisciamo altro, KK. È vero Garietto, ho fatto questo computer. No, computer no, il CD, là, no, computer, CD, non so dove cavolo l'ho messo, vabbè, dammi il culo. Mi sta aspettando, mi ha fatto un preventivo, un dentista, però è a coso, a Tirana. Mi deve chiamare, un ultimo preventivo, Allora, 7.120 euro. Ma in quanti giorni ci deve stare poi lì? Allora, è scritto qua, allora, tempo di impegnato pagamento, la prima seduta 4 giorni, 4.240 euro, la seconda seduta 7-8 giorni, 2.880 euro. Ma te lo conto, vai di rimani 15 ricchi. Cioè 15 giorni dove devi alloggiare, devi mangiare, le spese che te le paga lui. Allora qua dice, cosa vi offriamo? Un hotel 4 stelle per due persone con colazione, wifi, palestra, SPA, non so come spa, insomma cosa sia, vabbè, la spa con idromassaggio, piscina e bagno turco. Poi, non ho capito questo qua, vabbè, un po' scritto, vabbè no, sono italiani, un po' così. Poi allora, trasferimento dall'aeroporto, porto, volo, traghetto, andata e ritorno, prima seduta per il paziente. Ma questo non lo capita ancora. Ti daranno una sedia per il paziente, cosa vuol dire? La spa è una sauna, idromassaggio, bagno caldo, quello lì non fa. Ho capito. Vedi tu, perché se devi pagare 7.120 euro è un buon prezzo. Cioè però mangio pagare 15 giorni di soggiorno, 12 giorni di soggiorno, cazzo, quindi voglio anche 4. No, no, ci ha dato mio zio, ti pagano tutto loro, cla. Vai lì con quei soldi e sei spesato di tutto. Allora, qua dice poi, cla, aspetta, qua dice, se impianti dentali in titanio, 6x320, uguale 1.920 euro. Poi 12 colonne in metallo ceramica, 12x120, uguale 1.440. Praticamente, come si dice, sono in ceramica i denti, capito? E così puoi mettere il capo della Piccarindia? Sì, sì, no, sì. Però prima ti mettono provvisori, e beh, il coso deve fare, come si chiama, il perno deve fare il suo dovere, no, guarire tutto, sennò non ti fa, stai buoni subito guai, si ci capo. Deve attecchire, se no fa rigetto. E poi mi fanno la costruzione dell'osso mascellare. Ma è vero, eh. Cazzo di giorno che sei un altro, eh. Eh beh, no, cazzo di cominciamo a dire, ma no, lascia perdere, non te li mettere così, bomba, sì. Vedete, cazzo, mi bongo la dentiera di nonno, mi bongo, ma va. No, oh, cazzo, tu immaginati una dentiera nel dell'inghi rubroso, bene, male. La stacca rubrosa attacca. Allora, tu cazzo, ti fa la dentiera, si inchibi. Se ti mi fai della migliore attacca, e ti do una farà. Allora, cazzo, di culo con l'attacca. Sono così belli, no, cazzo. E dove andiamo, cazzo? Sì, sono qui, oia. Beh, ma non dovevi passare a prendere questa roba, ma tra l'altro non ti cubi un cazzo, ma me lo vendo, me lo posso indirare sul tablet. Tanto no, io da Rosario sono... Non lo so come anche io, qua. Davvero, mi stamattina dovevo andare ancora a tempio, oggi ho telefonato, no, non ci frego, non vado né luci, né domani è da letto. Se va bene allora, non ne ho foglia, sono stanco, non mi sento per niente bene, c'ho un mal di schiena. Ah, vado Lucani, cazzo, che attunci, così cazzo, guardate sul televisore, la rete, c'erano cavalli, cani, si vuole mangiare. Non ne avevo, ma ci sudando per non sentire lì, e adesso qui, ah, sarei male, vita. Così, vabbè, alle voluto tu Lucani, Niente, sì. Stavolta lo stesso, non dormite un canto. A un certo punto stavo riposando, stavo dormendo, alla 1:30, 2:15, e non mi salta il gatto sulle balle. A un certo punto? Stavo dormendo. Ad un certo punto, non ti preoccupare, non ci sono problemi. Figlia, brutta, e mi salta. Certo. Ma se lo fa anche a me, lei me lo fa, quando sono da... dalla 25 di mani sono lì nel divano, me lo sdraiato, in relax, e me ne piomba così, all'improvviso, catenata ai bibilisti. Vabbè, però, finché te ne piomba così, mentre sei nel divano, non conto, ma quando sei dormito la notte. E tu, che non l'hai appiccato, oltre la giacchizza? Perché sto aspettando che fino finisca il cortile. Una scienza, la boia, mi dopo. Poi si dice, poi mi stavo chiamando loro, lasciamo l'aspetto. Bene, ma c'era qualcun altro in questo canale? C'è? Avanti. C'era Natalino. Vabbè, Natalino. No, io sono qua, scusate, mi sono allontanato un secondo, ma sono qua. Già lo sappiamo, caro, che tu sei qui. Te l'ho detto, c'era qualcun altro prima che entrassi io, no? No, c'ero io, poi c'era Nicola Rosso, ma non so se è già arrivato a Chiaramonte. Nicola, dove sei? Nicola. No, allora è sceso la macchina, dai. KK. No, no, io mi sono trovato un attimino, mi hanno chiamato. Io sono qua. Ma sto aspettando un'altra chiamata, poi devo scendere giù. E passare Danilo, mi deve dare dei muzzi che mi servono. Muzzi? I muzzi devo fare dei lavori, dei pezzi delle barre di ferro. Ma in campagna? Sì, devo fare le piastre per il cancello elettrico. Ah, ho capito. Bene, bene. Io penso, se domani è bella giornata, penso di sì. Livellano leggermente nell'ingresso per mettere le fotocellule perché c'è troppo di dislivello, capito? Ho capito. E poi chiamiamo l'elettrico e facciamo fare tutto. Bene, bene, bene. Che motore hai deciso di mettere? Ma tu non me ne dia a me, l'ha comprato un amico, fratello di Roberto Quadrato. L'ha comprato anche per lui, per campagna. Lì al Bricomen l'ha comprato. Vabbè. Ma si mette uno scorrevole a braccia? Scorrevole. Ho già scorrevole il mio, capito? Solo che devo scorrere a mano, ogni volta mi si girano le balle. Allora le metto il motore, basta che quando sta piovendo fanno giù il latte fare dalla macchina io. Devi stare attento perché comunque quel motore giù per lo scorrevole la lumaca si mangia la scheda. La lumaca? Le facciamo fare, no, è chiuso, tu. È tutto sigillato, è chiuso, c'è uno sportellino, una chiave per togliere le vesce d'ingranaggio. È tipo questo che abbiamo noi qua. Oh, io non so quanti ne cambio io. Ne cambio in continuazione, c'ho 1000 condomini con 1000 assistenti. Se gli mangia quella lumaca senza guscio, se ne entra dentro, la baffa, gli brucia tutte le schede. Chi ne ammazza ne rivaria? A me non c'è un sistema. Sì, come avevo fatto Franco, che gli avevo consigliato io, Franco mio compagno, Delta 1, gli avevo detto, tu tieni la scheda da dentro, ti fai una cassettina stagna all'esterno e la trasporti fuori. Questo assoluto di qualità ci sta. Questa è una cosa che... ci rimane un motore, 200... quasi 240 euro. No, il motore non gli fa nulla, si entra dentro quella carcassa, quella scatolina grigia, blu, verde, come ti dipende dalla marca, se ne entra dentro la lumaca quella senza guscio, quella da molle, e poi con la bava, no, si appoggia nella scheda e tira a grippa. Ascolto, e se la scheda la faccio mettere fuori, come hai detto tu, con una di quelle scatole... che si mettono per esterne dall'elettricista, la faccio mettere lì. Così, l'unica cosa è portarla fuori, prolunghi i cavi, però devi mettere un presso a cavo lì nella scatolina del motore, poi porti tutti quanti i cavi fuori, però lo so, non tutti gli elettricisti ne fanno comunque di questi lavori, perché comunque sono rotti dei coglioni e perdete il tempo. Io sono elettricista fatto da gado, non è di disegno. Sì, non ti sto dicendo che sia fatto da gado, però ti sto dicendo che sono perdite di tempo, perché per installarti con la scheda per controllo, per collegarla, ad esempio io ti do un'ora, in un'ora te la collego, se per fare un lavoro del genere te ne carico 4 o 5. Vabbè, ma tu sei troppo caro, non ti chiamo a te. Ma io sono caro a prescindere, senza ombra di dubbio. Ascolta, in natura niente voi, a parte il preventivo. Tanto in natura, ma se non gli funzioni, c'è tutto canto andato. Ma c'entra, se non vuoi la femmina. Ma pure si fai la femmina, che la femmina vuoi va? Se già non riesce a far l'uomo, pure la femmina vuoi va. Che cattivo che sei. Tu lo sai che la donna ci mette, più passione dell'uomo. Cazzo, si già non riesce a far l'uomo. Cosa ne sai tu? Guarda che è un periodo che sto andando di lusso, Cosa stai prendendo? Il Betot? Eia, il Betot si è partito che è in sciroppo. Che discorso? Chi è? Vedi tu, non vale per credere, no? Zio Giulio dizia sempre, non è tanto dolore che te la frigidura. Cosa vai da vedi tu, capo e bugnè? Dai che ho sollevato il nuovo l'antenna, come mi ascolti Claudio? Ehi, una bomba, 9:20 Radio 5, sei Tony. Allora già va bene, ciao Antonio. Ciao Tony, arriva come te. Il suo baracchino arriva di tutti con un mateci segnale. Generoso. Generoso, imballato. Grazie Cla, la puttana già volevi fare. Allora, siccome lui è caro, mi voleva una parte di soldi, no? Per piacere il motore, è una parte in natura, non mi vuole, ha detto il mio cuore a farla ferma, ma lo già ne sai tu. Ma va ragione alla base, dai, se ormai sei già la frutta mica. Questo è voce, che sei più grande di me tu, allora non serviamo più a niente. Ah, vedrai, ci mettiamo d'accordo. No, io già funziona ancora, grazie a Dio. No, non è mia, lo già uomo. Si chiedini, si chiedini, altri due ne vedi uno. Via. Non lo so tanto davvero, perché adesso devono, prima, insomma, sistemare tutto, poi vediamo. Comunque noi ce l'abbiamo così qua a Carbonazzi. Praticamente c'è il motore che è a destra, dove c'è la prima fotocellula, quella piantona, attaccata al muro, c'è una scatola, lì c'è la scheda. E le stagna, capito? E ha sempre, c'è una vita. Non ho mai fatto niente delle lumache, come stai dicendo tu, quindi farò la stessa cosa anche io, adesso vediamo. Lo so, Cla, ma tu lì a Carbonazzi non sei in campagna. Sì, a togliere a giocare in vena. Molte volte io le ho viste queste lumache che sembravano dei serpenti piccolini, mi sembravano lombrichi, invece sono lumache. Sì, sono quelle bavose. Cazzo, ma lo sai io a Caniga? Guarda, l'avevo cambiato 3 volte, questi sembravano che le producessero loro le lumache. Alla 3ª volta gli ho detto, ascolta, guarda, facciamo una cosa, ti porto fuori la scheda, e non se ne parla più. In campagna invece era mio padre, aveva battuto i muri, l'avevo fatto a due ante, via, fuori dalle balle. No, questo non si può fare perché il cancello è 3 metri. Ti ho pitto, hai 3 metri le scorrevole già piazzato. E io, vabbè, dai, qualcosa si fa, già vi ti dico, adesso era giusto per capire. Se mi hai detto così, glielo dico all'impresa prima che vadano via, gli faccio fare questa cosa. K, e metto lì, l'hai messa com'era o l'hai tirata più su? No, più su no, niente, non ce l'ho fatto palla, mi va bene così, l'ho rimesso come la prima, l'ho abbassata, adesso ho rimesso queste anche 2 metri, e come prima, 6 metri, capito? È più l'antenna. Comunque è tornato come prima il segnale qua. Ma io mi sono andato più forte, Tony, ma quel radiale non gliel'hai messo? Mi sono dimenticato. Sì, te vecchia nel cazzo, adesso era bassa, porca, mi sono dimenticato ieri. Guarda, mi è uscito dalla mente ieri quando mi hai detto che oggi dovevi rimettere a posto l'antenna, di dirtelo, ricordati di attaccare il radiale. E vabbè, ma quello comunque, se dovesse capitare mio figlio lo faccio salire a lui, che è leggero, e glielo faccio mettere perché salendo con la scala sopra ci si arriva già al radiale, capito? Sì, sì, l'avevamo visto appoggiando la scala lì, avevamo trovato, si arriva tranquillamente. Alla grande, va bene, va bene, dai. No, no, arrivi benissimo, 9.20, non mi ricordo che arrivavi così, boh. Forse leggermente più basso, però adesso sì, 9.20 pieno. Giustamente se arriva basso basso, me l'hai anche detto. Sì, vabbè, basso, vedi tu, a volte abbassi la potenza, esci basso, l'altra volta eri più basso del solito, ma perché l'antenna era bassa, adesso è tornata alla grande, 9.20. Vabbè, dai, sono entrato nella battutina perché ho sentito che, insomma, volevi fare la femminuccia. Esco un attimino, mi compro un po' di verdura, voglio andarci leggero la notte a cena, ragazzi. Adesso vediamo cosa farmi. Beh, buon proseguo, ragazzi. Fatevi bene e fate la brava in me, non fate le mignotelle. Avanti a tutti, ciao, ciao. Ah, sono buone anche quelle, adesso per Pasqua le mignotelle. Si assomigliano alle formagelle. Però sono più zoccole. Ciao, Tony. Buona serata. Sono più dolci, no? Le mignotelle delle formaggette. Ma quelle ti bucano i denti. Sì. Ma dopo una ventiera ti dà lì l'inverno. Poi devi andare anche tu con Luca in Tunisia a farti trapiantare il buco del culo. Ehi, accidenti. Ma vai in Tunisia con Luca, andrò con Tonino a fare compagnia, capito? Questa va l'operazione. Sono pure Tonino senza denti, eh? No, Tonino deve andare a fare un'altra cosa, una cosa di ernia, capito? Più facile è quella, visto che sta tagliando dietro, mi faccio aprire anche l'avanti. E tu dici, quello che ha detto a lui lo mette a me. A chi non si può fare? Tutto si può fare. E come ti andando in macelleria, che ti compare il giragnone, ho detto, siamo in un gabbo. Oh, la giunta. Ecco, siamo in capo con la testa, e tu puoi sciubarare. Io, vabbè, anche quello si può fare, tutto si può fare nella vita. Bisogna farlo bene, però, siamo in bagli, è un casino. E lo sai cos'è? Che si dice una volta sola, anche se sbagli, almeno puoi dire che hai sbagliato e ci hai provato. Quelli che avevano sbagliato sicuramente sono stati senza far niente. Ma sicuramente sì, guarda, alla grande. Allora, a me, io mi ricordo tanti anni fa, quando ero gradura, che ragazzino, che mi dicevano, ma qui, ma là, ti metti a fare quello, ti metti a fare l'altro, questo qui, questo là. Ho detto, se non provi non sai mai cosa fa, se rimane lì a aspettare che ti scenda qualche cosa dal cielo, non ti farà nulla. Ti devi la bocca alle mani che andà, ha giocato 150 miglia e una cosa. Si conferma, si conferma. Oh, yeah, yeah. Vabbè, piano piano già si fa tutto, là c'è problema. Natale! Cosa tirano la in punta di gasino? Ma poi aveva risolto Natale non con la tela dell'antenna, no? Penso di sì, ogni tanto sta facendo sentire, evidentemente aveva fatto qualcosa. Ho capito. E tu quando ti trasferisci qua? Guarda, è una domanda da $100,000. Io anche stamattina sono ancora i muratori, purtroppo sono i muratori perché c'è stato un problema al Caverio e quindi hanno tardato tantissimo, quindi adesso appena vanno via loro dovevamo portare via tutto, io devo prima pulire tutto, disinfettare tutto e poi iniziare a portare via la roba. E ho capito, ma di date non hai venduto ancora? Hai venduto già l'altro, tutto certo, fatto tutto. Ah, quindi gli hai dato, cioè ti hanno dato il tempo di, gli hai dato quel margine di consegna? Guarda, per legge sono dai 3 ai 6 mesi, però siccome 6 mesi non mi servivano, ne ho dato 3. Quindi entro maggio, insomma entro fine maggio posso consegnare tranquillamente, perché io sono pronto, mi atto, ti mando le foto da su, sono accampato, ora giù anche un centinaio di scatole di cartone tutte imballate, gli armadi sono tutti vuoti, capito? C'è solo il necessario, dove vuoi pigli un sacco, di cui tutto dritto e via. Smontare i mobili è una fesseria, perché la cucina gliela sto lasciando, che io là ho fatto il piano cottura nuovo. Una camera da letto gliela sto lasciando, perché è una ragazza che ha avuto praticamente un sacco di spese, diciamo, ha fatto un sacco di spese per comprarsi la casa. E quindi quello che le serve, anche perché la conosco, quello che le serve gliela sto lasciando. Perciò devo portare via il salone, una camera da letto, la sala d'aria è già vuota e basta, no, non pensare ci sia altre cose. Così comunque in una casa sembra che non ci sia niente, se poi devi portare via le cose, io ho un garage pieno di scatoloni di roba di mia figlia che non se ne vuole liberare mai, pupazzi, guido, rastro, libri, e poi continua a comprare libri e continua a ammassare libri, e gli ho detto ma questi libri regaliamoli, facciamo, no che se mi capita che me lo voglio rileggere, no, già vedi il capo in campagna, no, che viene lo mattesse. Cioè, da babbo c'ho roba anche da mio babbo, figurati un po'. No, ma io quello che, guarda, quello che ho tolto dagli armadi è impressionante, tu, veramente, cioè quello che riescono a fare le donne è una cosa assurda. E ne ho dato tantissima di roba, l'ho portato molto vestiario, l'ho portato alla chiesa, molte cose che non servivano le ho regalate, le ho date per campagna, qui e là. Quindi diciamo che insomma, linea di massima io ho già fatto, sono già pronto, già tutto imballato con tutte le sue scritte, quello che ho riscatto, la cosa c'è dentro, eccetera. Smontare mobile è una fesseria, tutto il battito delle tende, le lascio anche le lampade, se no le lascio, perché a me non servono un altro stile. Tolgo questa che c'è qua, il lampadario che mi serve per la cameretta che c'ho in più, e poi basta la lampada di camera da letto, il bagno glielo lascio completo com'è, perché è tutto davvero nuovo praticamente. E questo è da mio, aspetta, scendo. Vai, vai. E comunque dovevo un gamio di gascetti, bisogna buttarsi. Aspetta, arrivo subito. E io sono qui. C'è nessuno? Luca? Niente. Natalino? Chi è? Avanti. Avanti 10. Un bel lago, Gigi. Non so. Come stava a ti faccio un microfono, sto facendo, sto cambiando la palla all'Ecomaster, Bellarello sta bene. No, la palla grande, mi ha portato un microfono da Nido, ho modificato, capolavoro sta venendo, aspetta, poi ti mando la foto. Passo però di radio, già lo sei toccato, Gatto? Cosa sono passo? Sì, passo e saturo. Guarda adesso. Prova. 1, 2, 3, 4, 5. Io la sento un po' satura. Non era così ieri, E così, guarda. Così va un po' meglio. Va passo, guarda. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Non la sento bella come ieri, già. Cosa stai usando? Il Galaxy con le tappe. Cosa si è agganciato? C'è la potenza troppo alta, non lo so. Non sono agganciato. Dovevo andare a così guarda la potenza. Si è sentito meglio, lo sto dicendo. Non so se è toccato qualcosa, si è fatto qualche modifica. Provo a passare, guarda. No, non mi so levare, no, passare, no. Così al massimo, guarda. Cazzo di aro, ma non fai sentire la radio già, ma quando c'è vero il microfono, battiti da uno. L'ho abbassato, dai, perché tu ti dico, abbassa che tocco forte. No, dico, allora io devo abbassare, io ce l'ho a 4, il saletta, non abbassa nulla, a me mi piace così. Se non me la fai sentire la radio, poi ti diventa una dumba. Adesso va bene. Io non credo che va bene, adesso è un tanner. Caraga, allora, quindi vuole tenuto al massimo, dai, per sentire. Perché c'è gente che dice, ah, sta al massimo che è troppo grossi. Eh già, ognuno dice la sua, però se tu ti basi su quello che va bene a te, va bene a te, punto. E adesso faccio una cosa, avevo un po' di cuffie, quando mi devo ascoltare, mi ascolto io. Cioè, se ognuno dice la sua, però, io se non ti sento, no, io posso dire, la radio è troppo, non va bene. A me piace un po' più alta, capite? No, ma è giusto che sia così. Anche perché, tanto se abbiamo i microfoni da tavolo e li teniamo a zero, allora tanto vale usare i microfoni da palmo, no? Non sei d'accordo? Ehi, ho sentito a Torino poco fa. Cazzo, stavo uscendo veramente bene di radio, col microfono normale, mi era sembrava amplificato. Sì, sì, l'ho sentito anche io poco fa, gli ho dato un controllo, l'ho rimesso sull'antenna, va benissimo la grande. Ehi, no, no, con l'antenna già funge bene. E lo dico che funziona bene. Malgrado abbia materiale più fino o cose, ma va bene come trasmissione e ricezione va bene. No, va bene, poi guarda il Galaxy, io l'ho provato anche col microfono normale già, e ti dico che funziona benissimo. Adesso il Tower super sì che con ecco. Io glielo va bene lo stesso, ma io preferisco senza ecco, più bella la modulazione. Una prova, siccome non ha l'eco questo qui, quindi lo faccio io. Aspetta. Così. Sì, qua sogno. Cosa qua? Qua sogno. Ho capito, è un sogno. Perché Marco se ne arrivi. Allora ti mando la foto di quanto hai giocato questo suo microfono. Cazzo, bella bella venuta. I microfoni? Il saletta, il Master Plus. Mi ha portato una palla di quelle belle, palla MC60. Ma bella è venuta, E beh, mandatela. No, aspetta, fai la foto, No, la mia è originale, tu l'hai messo la spugna, io ti faccio vedere cosa ho fatto. Volevo entrare. Aspetta, lo mando già. Io. KK è K di Rosmetto. Carino qua. Carino. Solo che l'avevo fatto tutto nero, lo sai. Una spruzzatina l'avevo dato. L'avevo fatto tutto nero. Ma la gratta? Ma la gratta deve essere così già. Deve staccare, tutto nero, c'è solo la carta grigia, bello, della VCF. Cioè, sono già rappresentato perché l'ho dovuto modificare il per avvistarglielo, capito? Perché quella era più grande. ma magari non ha deciso, però adesso mi piace, mi piace. Sì, sei carino, dai. Sei bellino. Andare. Ah, io gli ho messo la spugnetta e va bene lo stesso, dai. Sì, ce l'ho con la spugnetta. No, volevo, perché era troppo grande la spugnetta. Allora gli ho messo proprio il coso, la gabbia così, dai. È bellino, bellino. Era grande anche per me, ma già non si avvede. Gli ho fatto tutto il contorno del buco dove deve entrare, tutto a silicone nero. Gliel'ho fatto asciugare e dopo l'ho entrata a forza. No, qua non c'è un silicone, qua è filettato. Posso smontarla e metterla quella piccola anche, capito? Va bene, va bene. Quella è la vittatura. Allora, vittatura gliel'ho fatto, l'ho passato al maschio. La vittatura, certo, certo. Tanto la capsula, questa è la vittatura, siamo come faccio arrivare la capsula. No, sto parlando, devo uscire. E poi interessante che funga. Cosa già? Interessante che funga, che funge. E io funge, la voglia di funge. Vediamo sotto quello bella. Questo qui è quello che stai usando. Cosa già? Aspetta che ne tolgo tutto a mezzo ai piedi qua, cosa hai detto? Quello che stai usando adesso, ho detto. Sì, sempre questo, e questo è Saletta Master Plus. Ce l'ho a 4, ma va bene. Ehi, va bene, prova a farla, vedete, se è un po' forte. Ehi già, se l'ha tutto, così a 5 qua, a 5, 6, 7, 8, 9, 10. A me mi piace anche a 10. La voce è sempre chiara, più forte ma chiara. Lo so, ma non vogliono, dice che è troppo alta, e allora dobbiamo accontentare anche gli avversari, cosa vuoi ti dici? La popolazione della guerra è quella lì, quella 10. Gianni, aspetta, vai. Vai, se. Cosa? Diglielo, ne avete poco di stoppa, diglielo. Ne avete poco di stoppa. E vai, rosolito. Ne avete poco di più, vado che accesi. Buonasera a tutti, buonasera a tutti. Ciao Ste, ciao. Cosa sei, tournée? No, sono qua in città, capito? Sono in macchina. A città Olbia, sì, o sia qua città Sassari, no? Oh, yeah. Alluvinante, alluvinante. Questo rosolito. Già, comunque c'è l'alternata sotto. Io? Sì, che c'è portante? C'è l'alternata però, ste. No, non lo senti. Mi piace, schiaccia, schiaccia di nuovo, già. Si trova un'altra volta? Sì, l'alternata c'hai, Ste. Ma, sì, Ste. Ti devo soltanto perché mi stanno chiamando a telefono. Aspetta, già. Guarda, Luca, ti ho mandato come ho fatto il Saletta, vai. Vabbè, la mia professionista. Ecco qua, al telefono con Stefano. Cosa stai dicendo, Cla? Guarda, ti ho mandato il Saletta come l'ho fatto, va, se ti piace. La vedi? Aspetta. Così l'hai fatto? Mia palla era giù, tutta la sua, e gli ho messo questa, guarda che bello. Ma tu vicino pure è cambiato? Allora, tutto cambiato, più corto, tutto, va. Cazzo bello, non è c'è 60. Sì, sì, va bene. E funziona il motometro adesso? Tutte e due funzionano, tutto funziona. C'erano due fili staccati, ma è forza. Ah, ecco, io ci ho conducato. Ehi, già l'ho aperto io. Chi è che chiama Claudio? Cappa, chi è che chiama Claudio? Sì, basso basso, chi sei, dove sei, con chi sei? Santiago 3 mi arrivi, Robè. Santiago 3. La radio potrebbe andare, ma il segnale è molto basso. Cosa? Ah, già qualcosa? Beh, se ti ascolto Santiago 3, già qualcosa sì. Lu, lo senti a Roberto Alghe? Lu, lo senti? Io lo ascolto. Lo senti tu? Vai, se lo senti. Avanti Roberto, ma là non ti incubito. Ma lui non ti... l'hai sentito Gianni, Roberto? Ehi, adesso sì. Bascio bascio ti ascolta, KK. No, io sto andando col Galaxy, Roberto, non sto andando col K, sto andando col Galaxy e un Master Plus, un Saletta, microfono, cambio. Bello, no? Una bella modulazione, c'è, sì. No, bellissima modulazione. Vabbè. continuiamo a fare abbinamenti, dai, giusto così per ammazzare un po' il tempo. Vai già. Ehi, hey, Robert, dammi un controllo di segnale in radio, grazie. Non lo so, forse è zona negativa, però io ti ascolto bassissimo, sente uno e mezzo. Riprendi Claudio, riprendi. Sì, io, va bene. E insomma, sto usando un'antenna piccolina, vabbè, quella zona. Io manco lo so, vabbè, Roberto. Ah, è vero che già lo so, sì, mi ero dimenticato. Lo sai, giallo. KK di Rogero, vabbè, quindi già, ti piace, ma sinceramente, meglio della cuffia, va bene così come l'ho fatto, ora che metto la sua. No, già va bene, già va bene, io l'avrei fatto la grotta nera, e basta, tutto lì, quello lì l'avrei ritoccato, nera sarebbe stata meglio, Clark. La retina stai dicendo? Via. Via, ci vuole poco a togliere la retina e verniciare. Due minuti e verniciare, beh, perché c'è il marchio RCF e poi c'è la scritta microfono tutto in giro, capito, la marca del microfono, vabbè, io non c'ho più gana, già è già troppo in su a Giovatto. KK Luca lì è. Oh, eccovi qua, ci siete? Grazie, sì. Io ti ho detto sinceramente, ti piace o non ti piace, va bene? A voi, è di lusso. Sincero, sì. Se non ti piace dimmelo, è buon buraco la gioia. Ma mi sembra più corposo, più bello. Ah, è bello, Cla. Sì, aspetta. Sì, c'è un po' più vinica, questa è più... sembra più... come si dice, più professionale, mi dà. Va bene. No, è già professionale, dell'RCF. È dell'RCF, ho lasciato anche il marchio, capito. No, è più bello, mi piace di più, è troppo finito sul coso. E poi c'è la capsula che è proprio praticamente molto larga adesso, ho capito, c'è più spazio nello sputarlo, a sputarlo. Piu, già mi ha detto di fare la retina nera, ma non mi piace, è giusto per staccare, sennò è tutto nero. Ma il tuo è Clau, lo devo restituire. Oh, quella giù ha pagato Buru, l'avevo pagato ieri. Ah, ho capito, dammi un'onda zia. Non va, cosa ti posso fare? Se andati non avevo comprato due, poi l'avrei sistemato un po', da. Ho notato che il PTT Locke si incantava. Lui sporco era, sporco. Voleva pulito perché lui ce l'aveva da parte e non lo stava più usando. Anche gli slider in cuffie sentivo... Ora nuda, sono belli puliti, li ho puliti con la trilina, col pennellino, è perfetto lui, davvero. No, me l'ha dato quando l'ha preso a te, me l'ha portato a me, per provarlo sul Galaxy, per vedere se c'era qualcosa che non andava. Invece come l'ho attaccato, va bene. E allora gli ho detto, lasciamolo, no, i soldi, gli ho dato i soldi ieri, li ho ripassato perché mi dovevo portare altra roba che mi serviva per campagna. Gli ho dato i soldi e me lo sono tenuto, e oggi me lo sono modificato. Gli ho messo l'asta più corta, la palla più grossa, è più bellino, va? Ehi, scusa che sono uscito a prendere il cane fuori, e stava rompendo le balle a mamma. Senti, mi vedi? Ehi, comunque va bene, dai, io sono curioso di provare quello di Gianni. Ah, tre volte un giro su internet, vediamo un po' se c'è qualcosa. E questo è quello a due strumenti, quello di Gianni a uno, ma li trovi tutti e due, sia uno che l'altro, già si trova. E se ne va a tenere in bagaglio, capito? Io l'ho preso perché